Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento settimanale con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori, questa settimana solo nella mattina di venerdì. Oggi parliamo di sfratti e al telefono abbiamo il presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti. Allora, gli sfratti sono sempre un tema doloroso, purtroppo, e i dati cosa ci dicono? Sì, un tema doloroso che rischia di trasformarsi addirittura in una bomba sociale, perché abbiamo dei dati molto importanti riguardo proprio gli sfratti. Sfratti che, di cui vedono come vittime persone che non hanno più soldi per poter pagare sostanzialmente l'affitto. Come... questo è perché lo sfratto viene dato appunto per questo motivo, cioè per morosità. Sì, consideriamo come categoria di persone, in questo senso, gli sfrattati incolpevoli, cioè praticamente quelle persone che per reddito dichiarato è praticamente matematico quasi il fatto che non riescono più a pagare l'affitto, quindi parliamo di persone al limite della sopravvivenza. E quantificando, quanti sono questi sfratti? Allora, nel 2011 in Italia sono stati ordinati 63.000 sfratti, di cui 56.000 per morosità. Un dato che è impressionante se si pensa che oltre 28.000 di questi sono stati eseguiti dalle forze dell'ordine. Quindi capiamo che è un dato che oltretutto coinvolge anche le forze dell'ordine, perché poi gli sfratti, quando vengono resi esecutivi dal tribunale, il passo successivo è quello di coinvolgere le forze dell'ordine e procedere allo sfratto, quindi con la forza, e quindi pensiamo anche alle situazioni disperate dove ci sono famiglie, figli e quant'altro. Certo, mi metto anche dalla parte dei proprietari degli appartamenti che poi hanno, non è che sono così liberi, me lo puoi confermare, di mandar via le persone, anche se uno non paga, insomma, prima di arrivare allo sfratto la procedura è piuttosto lunga. Guarda, ti dirò Mingo che qui la ragione non si sa, a volte si tende a smarrire e non si sa più da che parte si sta, possiamo trovare, perché se da un lato troviamo dei proprietari che hanno cercato di affittare l'immobile perché avevano bisogno di garantirsi quel minimo vitalizio al mese di cui loro tengono conto, perché in questo caso noi parliamo di casi veramente limiti, e dall'altro troviamo delle persone che per tanti motivi, perdita del posto di lavoro, problemi di salute e altri imprevisti, non si trovano più nella condizione di riuscire a pagare l'affitto. Poi sappiamo che l'iter per poter fare in modo che queste persone vengano, tra virgolette, cacciate da casa è un iter anche costoso, perché bisogna procedere per via giudiziaria, quindi fare una vera e propria causa, e poi al di là dei tempi e dei costi purtroppo va a finire sempre che l'inquilino se ne deve andare. Certamente abbiamo anche molti casi e segnalazioni poi di quello che alla fine il proprietario trova dentro l'immobile quando questo viene liberato. Allora, aumentano gli sfratti, però contemporaneamente ci sono molti alloggi sfitti e quindi non capisco dov'è il problema. Purtroppo l'Italia è l'unico paese dove, a fronte di un calo demografico, si continua a lottizzare nella maniera più barbara e più indiscriminata. L'Italia purtroppo in questo paese ha questo triste primato e soprattutto era un dato di qualche tempo fa che quello che è stato lottizzato negli ultimi 15 anni è l'equivalente del Veneto, Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna. È anche vero che questo fenomeno degli sfratti fondamentalmente riguardano proprio queste regioni che abbiamo detto, eccetto il Lazio, perché la prima regione è la Lombardia, poi seguono Lazio, Emilia Romagna, Piemonte e via dicendo. Quindi capiamo che è un problema che riguarda in particolar modo il nord, perché soprattutto al nord abbiamo degli importi comunque di affitto che sono di mediamente di 500-600 euro al mese, e quello che è stata la conseguenza della perdita del posto di lavoro, certamente al nord più del sud, che il sud già comunque aveva una situazione abbastanza critica, ma comunque ha dovuto subire in questi ultimi 2-3 anni. Potrebbe essere interessante magari calmierare i prezzi, soprattutto qui al nord, appunto, dove sono mediamente piuttosto alti, cioè può esserci un meccanismo da chi dipende, insomma, abbassare magari un pochino i prezzi per agevolare tutti anche nei pagamenti. Certamente le proposte ci sono e sono state fatte. Come al solito scopriamo sempre che la politica è sorda di fronte a certe situazioni. Ripeto, di fronte anche a questi numeri veramente bisogna anche un po' mettersi una mano sulla coscienza, perché è vero che da un lato ci sono degli immobili sfitti, ma dall'altro è vero che ci sono state una rivalutazione degli affitti per effetto della conseguenza del costo degli immobili, che comunque oltre ad essere aumentato rende l'acquisto sempre più inaccessibile per le condizioni di insicurezza lavorativa che molte persone hanno. B, che comunque non esistono ancora delle agevolazioni fiscali per chi mette in affitto un immobile, perché fondamentalmente tra IMU, cedolare secca e quant'altro si trova veramente a pagare un sacco di soldi. C, perché comunque quelli che possono essere degli interventi necessari a calmierare i prezzi o a recuperare degli alloggi da assegnare agli sfrattati, e quelli che potrebbero essere degli interventi di edilizia residenziale pubblica che i comuni in convenzione con cooperative o imprese potrebbero promuovere nei territori, ancora sono fondamentalmente assenti. Quindi in questo senso dobbiamo capire che gli sfrattati, essendo persone che hanno mediamente un reddito ISE intorno ai 7.500 euro, dobbiamo anche cercare di pensare come poter venire incontro a queste persone, altrimenti il rischio è che questo esplode proprio una bomba sociale. È un problema più magari delle grandi città o è un problema che si verifica anche in paesi, in comuni piccoli? Guarda, io partirei anche da un dato Istat a cui fa riferimento un po' il reddito dei salari medi che dal 2002 ad oggi sono stati dichiarati diminuiti di 1.500 euro pro capite. Quindi abbiamo una diminuzione del salario disponibile, un aumento degli alloggi, conseguentemente certo che nelle grandi città metropolitane il fenomeno è più rilevante, perché i prezzi certamente sono più considerevoli rispetto a quelli che sono i comuni più limitrofi, però è anche vero che le offerte e il grado di proporzione comunque coinvolge tutte le realtà alla stessa maniera. E allora ci torneremo sopra, perché ovviamente riguarda purtroppo sempre più persone questa questione. Noi, Carlo, ti ringraziamo per oggi, la settimana prossima altri due argomenti. Buona giornata. Buona giornata a te, Mirko, e un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.